A bordo campo di Dario Ricci. Ma il nome fu appropriato oggi per A Bordo Campo, perché la nostra trasmissione si sposta a bordo campo di uno dei parquet più famosi del mondo, lo Staples Center di Los Angeles, e per la precisione non siamo in primissima fila ma in seconda, perché se non sbaglio è proprio lì che di solito si siede il nostro ospite, vero Ettore Messina? Buongiorno, sì, mi siedo proprio dietro al nostro capo allenatore Mike Brown. E da lì guardo la partita e partecipo alla partita. Eh sì, partecipa direi in modo più che mai attivo Ettore Messina, che come sapete è assistant coach dei Los Angeles Lakers, direi ambasciatore del basket italiano a bordo campo nell'NBA, perché poi in campo ci sono Gallinari, Bellinelli e Bargnani, e c'è anche tra l'altro sempre in prossimità della panchina ma col ruolo di head coach l'amatissimo Mike D'Antoni a New York. Coach Messina, intanto grazie per essere nostro ospite. Subito una curiosità. So che tra l'altro in seconda fila allo Staples Center capita anche, come è capitato a lei, di trovarsi a fianco Charlize Theron, quindi non è malaccio. No, direi, anche se l'attenzione poi deve stare sul campo, ovviamente, che a Los Angeles il parterre è da sempre storicamente pieno di questi personaggi, di queste stelle del cinema. Jack Nicholson è un abbonato storico, appunto attori, attrici, diciamo che è una delle tante cose che caratterizza Los Angeles, dove la partita di pallacanestro diventa un qualcosa di più che non un semplice avvenimento sportivo, ma anche un'occasione per farsi vedere, per così vedere appunto persone che di solito vediamo in televisione sullo schermo. Insomma, è tutto un grande show, non solo una partita di pallacanestro. Eh sì, magari è anche capitato di dire a Jack Nicholson: siediti che non vedo. No, quello no, perché fortunatamente è dall'altro lato del campo, non c'è bisogno. Meno male, meno male. Beh, cominciando a parlare di basket, perché anche e soprattutto di quello ci interessa. Coach, ci ricordi un po' come nasce questo sodalizio con Mike Brown, da quest'anno head coach a Los Angeles, sponda Lakers, ha preso il posto del leggendario Phil Jackson, un'amicizia e una stima professionale che si sono consolidate negli anni, fino poi a portarla a LA. Guarda, è cominciato tutto qualche anno fa, quando Mike era capo allenatore a Cleveland, la squadra dove giocava il famoso LeBron James al tempo, e quell'occasione lui aveva interesse, diciamo, a ampliare un po' i suoi orizzonti, a vedere un po' come facevamo le cose in Europa, e mi contattò. Ci scambiamo delle mail innanzitutto, poi delle telefonate, e poi ci scambiamo prima una visita negli Stati Uniti da parte mia, e poi lui venne per 2 anni di fila alla nostra preparazione estiva, che è una cosa che devo dire sinceramente mi sorprese molto, perché venne dove eravamo in ritiro, rimase con noi per due anni di fila, 10 giorni, scambiando idee, prendendo appunti, venendo con noi anche nelle nostre partite precampionato. Ricordo che venne a Bologna, a Verona, dove in quella volta lì andammo a giocare, e quindi cominciamo a stabilire un contatto, mi permetto di dire, di reciproca stima. Lui è molto interessato a quello che si fa anche in Europa, e quando ho avuto la possibilità di andare a allenare i Lakers, maggio mi ha chiamato e mi ha chiesto se ero interessato a partecipare con lui in questa avventura. Ci ho pensato un pochino, devo dire non molto, poi ho accettato. Eh sì, insomma, chiamate che non arrivano tanto spesso in una carriera, però è una chiamata particolare per lei, che in Europa, con tante maglie, Bologna, Treviso, il CSKA a Mosca, Real Madrid, ha vinto praticamente tutto, la nazionale azzurra, un argento europeo. Fare il secondo, che deve essere stata una sfida, ma anche forse un'idea che può anche mettere qualche perplessità, perché insomma lei è abituata ad avere in mano il timone di una squadra. È vero, però due cose: innanzitutto la possibilità di farlo dentro la Lega più forte del mondo, quindi avere la possibilità di vedere dal di dentro come fanno le cose qui, che è stata una motivazione importante. Dall'altra, come ha detto lei, dopo tanti anni credo che fosse giunto il momento di fare un attimo un passo indietro e riuscire a concentrarsi soprattutto sul gioco, cioè sulla possibilità di vedere come fare le cose in campo, come magari migliorare qualche nozione, qualche informazione, mettersi anche un po' alla prova. E devo dire, non sono pentito della scelta, perché è sicuramente un mondo che ti fa così, ti fa da propellente, no? Se avevi perso l'entusiasmo te lo fa tornare, e se l'avevi te lo fa salire ancora di più. Quindi sono contento della scelta che ho fatto, e fino a questo momento mi sto addirittura così ponendo dentro la testa il dubbio se vale la pena continuare e magari fermarsi di più di un anno, come magari potrebbe essere possibile. Anche perché tutto sommato è un'esperienza che è propedeutica anche a diventarlo poi prima o poi head coach. Ma questo, guarda, sinceramente non mi pongo in questo momento l'obiettivo, per un motivo molto semplice: dovrei rimanere qui almeno 2-3 anni a fare l'assistente, a capire bene come sono i meccanismi dentro la Lega, a conoscere bene arbitri, giocatori, abitudini. Dovrei approfondire molto questa conoscenza. Adesso non so, fossi stato un po' più giovane forse poteva valere la pena. Adesso pensare di costruire da zero tutta una carriera qui potrebbe essere più complicato. Dovrei parlarne sicuramente anche con mia moglie, con tutto il resto della mia famiglia, perché comporterebbe uno spostamento, direi, per un lungo periodo di tempo. Quindi per il momento vivo l'esperienza. Alla fine dell'anno ci siederemo a un tavolo con Mike, con il nostro general manager Mitch Kupchak, e se ci siamo stati utili, se ci sono le prospettive per poter fare un lavoro di lungo periodo, bene, se no cercherò di tornare in Europa. Anche perché in Europa l'aspetta Zelimir Obradovic, per rivitalizzare una sfida infinita fra voi due geni della panchina europei, che adesso insomma si sente la sua mancanza, direi. Allora, io ringrazio di questa cosa carina che mi ha detto. Spero un pochino che si senta la mancanza. A me manca anche l'Eurolega, devo dirlo sinceramente, perché è una competizione bellissima. Adesso vediamo, spero di avere qualche possibilità alla fine di questa esperienza. Certo, l'importante è crearsi le opportunità per poter scegliere la propria strada, ma ogni tanto ce l'ha la tentazione di fare il primo della classe, coach, di alzare magari la mano e dire: Mike, però questo lo farei così. Guardi, devo dire che a noi assistenti Mike chiede di essere molto attivi, nel senso che, pur essendo relativamente giovane, è un capo allenatore di 42 anni, ha la capacità di coinvolgere tutti i suoi assistenti. Quindi di dire l'opinione del tipo "io la farei così" capita a tutti quanti noi. Ovviamente c'è momento, perché nel corso della partita bisogna essere discreti e lasciare che sia lui a prendere le decisioni, modo da non creare confusione ai stessi giocatori. Viceversa, quando prepariamo allenamenti e partite, diciamo che la riunione è molto aperta, molto interessante, e la possibilità appunto di scambiare opinioni anche molto diverse è probabilmente la cosa che mi sta appassionando di più. Stagione che, come sappiamo, compressa fino ai limiti del possibile, o forse anche oltre, causa la serrata che ha ritardato l'inizio del campionato. Ma coach Messina, ci confessi, c'è tempo anche di vedere l'America nei ritmi folli dell'NBA, oppure è tutto albergo, aereo e palestra? Guardi, le confesso che al massimo, quando come oggi per esempio siamo per tutto il giorno a Boston senza giocare la partita, allora oggi pomeriggio mi sono ripromesso di andare a fare un giro per Boston, ma se no, obiettivamente, come diceva lei, siamo molto aereo, albergo, palestra, e non c'è il tempo veramente neanche per fare due passi. D'altra parte, si sapeva all'inizio che, dovendo giocare 66 partite in neanche 120 giorni, il ritmo è quello di una partita ogni 2 giorni. Quindi tra quelle che giochi in casa e il viaggio, le dirò che spessissimo ci capita di giocare una partita, subito prendere l'aereo e giocare nella città dove andiamo a passare la notte il giorno seguente, cioè fare il cosiddetto back to back, che vuol dire giocare 2 sere di fila. E addirittura sia noi che tutte le altre squadre abbiamo avuto a turno almeno un back to back to back, che vuol dire giocare 3 sere consecutive in 3 città diverse, che obiettivamente è qualcosa a cui non siamo abituati in Europa. Ecco, magari l'idea poi però di poter disegnare uno schema o dare un suggerimento a Kobe Bryant giustifica tutti questi sforzi, no? Tra l'altro voi ve lo date anche in italiano. Guarda, è un personaggio veramente interessantissimo, un personaggio che ha una conoscenza della pallacanestro enorme, è una persona che è molto esigente con se stesso e con tutti quanti gli altri. È veramente affascinante poterlo vedere tutti i giorni in campo e spogliatoio, nelle riunioni. Veramente un giocatore di peso notevolissimo. L'altra sera ha superato un altro giocatore nella classifica dei migliori marcatori, adesso è al 5° posto dei migliori marcatori di sempre nell'NBA e ha ancora molta carriera davanti. E certamente il fatto che ogni tanto faccia anche una battuta in italiano lo rende ancora più interessante. Le chiedo, è più difficile fare squadra nel senso tradizionale o meglio nel senso europeo del termine nell'NBA, dove il professionismo per alcuni aspetti è anche più esasperato e dove i rapporti forse sono più diluiti causa calendario, causa interpretazione dello sport d'alto livello all'americana? Sicuramente non sono in grado di giudicare in questo momento se è più difficile o meno difficile. Direi due cose. Innanzitutto può essere in alcuni momenti un modo di fare squadra diverso. Le faccio un piccolo esempio. Noi non abbiamo, quando siamo in trasferta, non mangiamo insieme. Ognuno è libero di... Nell'NBA si usa che ognuno ha un rimborso spese giornaliero e può andare a mangiare come vuole, dove vuole, nel senso che la disciplina degli orari impone solo allenamenti, riunioni e partite. E quindi c'è una notevole autoresponsabilizzazione di tutti quanti, ma anche magari la possibilità di dividersi in gruppetti piuttosto che riunirsi tutti quanti in una squadra. Dall'altro lato direi che c'è una competizione talmente elevata con tutte le altre squadre che la necessità di essere un gruppo coeso è forse ancora più fondamentale che in Europa per poter aspirare a dei risultati. A bordo campo. Ancora insieme qui a bordo campo con Ettore Messina. Beh, Coach, ambasciatore dell'Italia sui parquet NBA insieme a Bargnani, Bellinelli e Gallinari, di cui ora parleremo, ma qual è l'immagine che trasmettiamo all'estero, almeno in America, intorno a un campo di basket? Italiano, pizza, mandolino e pure mafia, mettiamoceli tutti, i luoghi comuni, oppure come è stato accolto, Coach? No, direi che gli stereotipi, grazie al cielo, sono stati evitati, nel senso che nel momento in cui arrivi qui, che tu sia giocatore o che tu sia allenatore, come nel mio caso, sei stato già oggetto, senza saperlo, di una valutazione molto approfondita. Se sei qui perché pensano che tu possa essere utile, molto pragmaticamente, non c'è nessun regalo a nessun livello. Il nostro campionato probabilmente in questo momento è, tra virgolette, un po' sconosciuto, nel senso che non è come negli anni 90, in cui magari l'ha seguito di più perché arrivavano anche stelle americane, come è stato per esempio per il grande Mercadou, per Michael Ray Richardson e altri. Però quello che viene fatto a livello di Eurolega dai giocatori italiani o dalle squadre italiane, per esempio sta facendo Siena adesso, è sicuramente molto molto seguito. C'è una forma, direi, di generale considerazione per quello che fanno allenatori e giocatori in Europa in questo momento. È sfumato però, peccato direi, lo dico da tifoso, il sogno di Gallinari di partecipare allo Star Game causa questo recente infortunio. È già un giocatore di quel livello, Coach, per quello che ha visto dal vivo, eh? Questo aneddoto: noi abbiamo perso una partita con loro a Denver proprio il primo dell'anno, la sera prima avevamo vinto e il giorno dopo abbiamo perso appunto a Denver, e Gallo è stato il migliore in campo, al punto che la nostra riunione del giorno successivo è stata praticamente imperniata tutta su Gallinari. Questo per dirle che impatto aveva avuto in quella partita. Stava giocando molto bene fino all'infortunio, aveva una grande possibilità anche perché la sua squadra sta facendo molto bene e lui è quello che si è messo probabilmente più in luce nella sua squadra di giocare lo Star Game. È un peccato, però credo che se continua così certamente non gli mancheranno le occasioni di partecipare allo Star Game. Andrea Bargnani è leader top scorer dei Toronto Raptors, che certo però non sono una delle franchigie di più alto livello dell'NBA. Una domanda, una mia curiosità, Coach: non è che troppe stagioni, diciamo, con un'intensità agonistica tutto sommato diluita, perché gli obiettivi a Toronto sono quel che sono, non possano alla fine nuocere sotto alcuni aspetti ad Andrea? Probabilmente per crescere e direi fare il salto definitivo, un giocatore che è già bravo come Andrea, probabilmente credo che senta la necessità di misurarsi a livello più alto, magari giocare in una squadra che gioca per il titolo. Io credo che lui ne abbia tutte le possibilità e a questo punto probabilmente tutto è collegato a temi contrattuali, cioè a vedere quando ha il contratto che lui ha in essere con Toronto, se avrà la possibilità di essere firmato da una squadra che lotta per il titolo. Forse lui dovrebbe sperare di essere coinvolto in un cambio importante e finire in una squadra che possa giocare per il titolo. Sinceramente glielo auguro di cuore, perché credo che mi abbia tutte le possibilità. Per Marco Bellinelli, una mia piccola provocazione, ma mi interessa il suo parere: non sarebbe forse il caso di tornare nel vecchio continente per monetizzare, non solo dal punto di vista economico ma anche in termini di esperienza, quanto fatto sui campi d'oltreoceano? Perché mi sembra che faccia fatica a starci al di là delle cifre. È vero, però se vuoi che dica ha tutta la mia ammirazione, perché mentre per gli altri due che sono stati scelti diciamo a un livello molto alto dalle rispettive franchigie è stato tra virgolette più facile entrare nel meccanismo e nel circuito una volta che appunto hanno avuto un contratto importante, lui ha veramente avuto la necessità di sgomitare, di lavorare, di farsi trovare pronto, di vincere molte sfide, e il fatto che riesca tutto sommato a rimanere, soprattutto giocando anche molti minuti in una franchigia, anche se è una franchigia in questo momento che sta ottenendo risultati scadenti, secondo me la dice molto sulla personalità di questo ragazzo. Dei tre è quello che conosco meno, perché io ho avuto l'occasione di allenarlo solo pochissimo quando era veramente un ragazzino e veniva a completare la rosa della Virtus gli anni di Ginobili, Rigodò e Janis. Adesso è cresciuto, devo dire che apprezzo il fatto che appunto non abbia scelto la via più comoda, che sarebbe quella di tornare in Europa, guadagnare di più e magari giocare molti minuti, e credo che abbia così, che sia anche un bel esempio per tanti giocatori che magari non hanno la voglia, la forza, il desiderio di mettersi in gioco continuamente. Tra i giocatori mari di seconda fascia, qual è quello che l'ha impressionata di più in questo primo scorcio di stagione? Ce ne sono tanti, e adesso magari sono un po' sconosciuti al grande pubblico. Ieri, per esempio, l'altro ieri abbiamo perso a Filadelfia, è stato un giocatore che si chiama Turner, che è un altro che si chiamano Mix, che sono due guardie, hanno giocato molto bene. Ci sono veramente tanti giocatori, e proprio per questo credo che anche la possibilità di stare dentro questa lega e conoscere questi giocatori che magari un giorno potrebbero venire in Europa e fare le fortune di una squadra europea, credo che possa essere nel lungo periodo un vantaggio anche per me. Come va il processo d'apprendimento di un nuovo attacco dopo anni e anni di triangolo di Phil Jackson? Kobe ha dato il suo assenso ai nuovi schemi di Coach Brown? No, Kobe l'assenso l'ha dato, ovviamente essendo un sistema di gioco completamente diverso e con spaziature diverse, perché stiamo impiegando sempre due pivot, non è un caso che mentre a livello difensivo abbiamo già raggiunto direi un'identità piuttosto consistente e solida, e lo dicono anche le cifre, a livello offensivo siamo in questo momento ancora alla ricerca di questa identità. Siamo una squadra che ha dei momenti buoni, dei momenti in cui viceversa la palla si ferma e viene spontanea, dare la palla a Kobe e sperare che sia lui a risolvere il problema. Bisogna che questo riusciamo a superarlo, perché la chiave della nostra stagione è proprio trovare un buon equilibrio in attacco e continuare a difendere bene. Sergio Scariolo, coach della Spagna Vinci Tutto, sarà sicuramente contento di sapere che il suo Pau Gasol è affidato anche alle mani di Coach Messina. Che campione è Pau? È un giocatore di grandissimo livello e soprattutto una persona che ha un notevole autocontrollo in tutte le situazioni. È un giocatore maturo, un giocatore che magari in alcuni momenti può dare l'impressione anche di non essere particolarmente aggressivo, però è un giocatore veramente fondamentale per poter, da parte nostra, spiegare qualche risultato importante. Vista dall'altra parte dell'oceano, Coach Messina, che effetto fa il basket italiano con le sue difficoltà di crescita, con le sue difficoltà nel ritrovare quella popolarità che invece negli anni Ottanta era ai massimi livelli? Ma guarda, la speranza è che questo processo riprenda in una qualche maniera. Sono contento che ci sia più equilibrio in campo, e lo dico ovviamente non a scapito di Siena, che è stata direi meravigliosa in queste annate in cui ha dominato, però credo che sia fondamentale che ci sia anche da parte loro il ritorno a essere un po' più umani, che vuol dire perdere qualche partita in più rispetto alle stagioni dominanti che hanno avuto, ma anche da parte degli altri la volontà e la capacità di provare a batterli, di provare quantomeno a metterli in difficoltà. Questo, il fatto che ci siano squadre come Cantù l'anno scorso e quest'anno, come la stessa Venezia, come Pesaro, come tanto Bologna che sta tornando a giocare a buoni livelli, direi il fatto che ci sia una competitività più diffusa è probabilmente importante per il tifoso, prima di tutto, che si interessi di più, e spero anche per le televisioni, che possono dare sempre una maggiore copertura, perché senza la televisione non andiamo da nessuna parte. Chiaramente, se va bene il campionato andrà anche meglio la nazionale. Cosa ci manca ancora per tornare ad alto livello in un percorso che in qualche modo è anche simile a quello, speriamo, che ha fatto la sua nazionale azzurra, che dopo la debacle trovò addirittura un argento europeo? La nostra nazionale mi ricorda un po' i Lakers, nel senso che noi qui abbiamo Kobe Bryant, Bynum e Gasol, più tutto un gruppo diciamo di supporto, no? come dicono quelli che sono amanti del cinema. E la chiave della nostra nazionale è credo la stessa che la nostra: trovare un equilibrio e un coordinamento tra i tre giocatori che vengono all'NBA e tutti quanti gli altri, perché tre da soli non possono vincere. Abbiamo bisogno di avere un playmaker che sia direi di grande personalità, e in questo ci sono giocatori che per fortuna stanno crescendo. Abbiamo bisogno di avere un pilot importante che giochi a la Bargnani, insomma che ci sia una squadra. Questo Simone lo sa perfettamente. Non possiamo vivere nell'illusione che i tre americani, per chiamarli così, risolvano tutti i nostri problemi. C'è bisogno di una squadra nel vero senso della parola, c'è bisogno di trovare giocatori italiani che crescano rapidamente. Abbiamo alle spalle di questa generazione dei ragazzi giovani, interessanti, che però purtroppo sono molto molto molto giovani, e bisogna sperare che facciano presto a crescere. Ettore Messina, assistant coach dei Los Angeles Lakers, ringraziandola per essere stato nostro ospite a Radio 24 e a Bordo Campo. Un'ultima domanda: lei sa già come va a finire questo campionato, ci dica la finale. Secondo me a Est la finalista verrà fuori tra Chicago e Miami. All'Ovest Oklahoma sta veramente giocando molto bene, sono giovani, forti, e spero che la finalista dell'Ovest insieme a Oklahoma siano appunto i Lakers. Queste sono le quattro che da un lato, tre di queste mi ci giocherei molto, la quarta, i Lakers, è una speranza ovviamente per me e per noi che stiamo vivendo questa stagione. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, l'appuntamento è come d'abitudine per domenica prossima alle 14.30 e il sabato in replica alle 6.30. Vi ricordo, per scriverci, l'indirizzo mail abordocampo@radio24.it, e poi potete seguirci anche sul nostro blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito web www.radio24.it. Un grazie a Pietro Lacorte in regia, un saluto da Dario Ricci.